Voglio amarti. Voglio perdonarti. Voglio salvarti. Voglio consolarti. Voglio capirti. Voglio amarti. Una stanza d'hotel come un castello e una vecchia macchina nera ti porta in giro per l'Europa. Il mondo cambia, i miei pensieri sono pesanti ora. Amici sono lontani, prestami la tua maschera. Voglio farti ridere. È arrivata l'estate, il mare mi piace. Una stanza d'hotel come una nuova casa e una vecchia macchina nera per venire da te. Qualcuno aspetta il suo momento, il suo volto è vecchio. Voglio musica elettrica. Voglio musica elettrica. Voglio musica elettrica. Voglio musica elettrica. Voglio musica elettrica. Voglio musica elettrica. Il mondo cambia i miei pensieri. Non voglio problemi stupidi. Voglio musica elettrica. Voglio musica elettrica. In giro per l'Europa. Voglio musica elettrica. In giro per l'Europa. Musica elettrica. In giro per l'Europa. Voglio musica elettrica. Elettrica. Europa. Elettrica. Europa. Elettrica. Voglio musica elettrica. In giro per l'Europa. Elettrica. Voglio musica elettrica. In giro per l'Europa. Elettrica. Voglio musica elettrica. In giro per l'Europa. Elettrica. Voglio musica elettrica. In giro per l'Europa. Elettrica. Elettrica. In giro per l'Europa.